Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Paolo Nori è uno scrittore ed un traduttore dal russo. Vi cito alcuni dei suoi romanzi più famosi: Basso Tuba non c'è, Grandi ustionati, I russi sono matti. Ora per la prima volta si diletta con il giallo, ma lo diciamo subito, è un giallo sui generis. Si intitola Che dispiacere ed è pubblicato da Salani. Il fatto che sia un giallo sui generis lo si capisce subito anche dal sottotitolo, che è un'indagine su Bernardo Barigazzi. Quindi si capisce che il protagonista non è, diciamo, l'investigatore. È un romanzo corale, veramente pieno di grande, grandissima ironia, e qui si riconosce naturalmente lo stile di Paolo Nori. Paolo, allora, tu sicuramente non sei uno scrittore che insegue le mode, e allora la prima domanda, come si dice banalmente, nasce spontanea: perché anche tu ti sei dato al giallo? Forse con la vecchiaia cedo alle mode. No, in realtà io sono interessato una quindicina d'anni fa. Io ho incontrato a Campobasso un libraio molto simpatico che era appunto infastidito da questa moda del giallo, dal fatto che la maggior parte dei suoi clienti gli chiedevano dei gialli, e che mi ha raccontato che quando un suo cliente entrava in libreria e gli chiedeva: non ha un bel giallo da consigliarmi? Lui gli consigliava Delitto e Castigo. E effettivamente io ho pensato che aveva ragione quel libraio qua, perché Delitto e Castigo, adesso non un giallo perché il lettore sa immediatamente chi è chi è l'assassino, il protagonista, però è un noir, no? Cioè, io da lettore, quando ho letto Delitto e Castigo, mi chiedevo: ma lo prenderanno Raskolnikov? Si accorgeranno che è stato lui a uccidere? È una grande indagine sul male, sul senso di colpa, sì, quindi insomma quello è un romanzo veramente enorme. È un romanzo straordinario, però nel quale Dostoevskij usa anche il pedale dell'indagine, diciamo così. E la stessa cosa succede nell'altro romanzo grandissimo di Dostoevskij, l'ultimo, I fratelli Karamazov, dove io, quando l'ho letto, mi chiedevo: ma chi è che ha ucciso il padre dei fratelli Karamazov? E quindi da allora io ho cominciato a leggere molti gialli anche, e ho scoperto degli autori che non conoscevo, e a maturare pian piano un desiderio, ecco, di provarmi anch'io, ed sono riuscito una quindicina d'anni dopo. Io ho dei tempi molto lunghi. Volevo dire che questo passaggio al giallo coincide anche con un passaggio per me difficile e importante, cioè dalla prima alla terza persona. Questo è il primo romanzo in terza persona che io pubblico dopo una quarantina di romanzi invece che erano tutti in prima persona. Ecco, tu hai fatto diversi riferimenti già all'inizio di questa nostra intervista alla letteratura russa. Io all'inizio ho detto che tu sei traduttore dal russo. Anche in questo romanzo hai inserito diversi riferimenti alla letteratura russa. Insomma, questo è anche un po' il tuo marchio di fabbrica, diciamo la verità. Beh, io ho l'impressione che, cioè, per il mio gusto la letteratura russa è la più bella letteratura del mondo, e beh, io sono pieno, la mia testa è piena di cose di frasi, di personaggi russi, quindi quando entro in una narrazione mi viene spontaneo riferirmi. E anche in questo romanzo, che parla di tutt'altro, ecco, ambientato in Italia, ecco, non sono riuscito a evitare delle contaminazioni con la letteratura russa. E allora veniamo appunto un po' alla trama del romanzo. Abbiamo detto che il protagonista, anche se è un romanzo corale pieno di personaggi, è Bernardo Barigazzi, che è uno scrittore di successo che fa il giornalista però di nascosto, perché lui, attraverso uno pseudonimo, scrive su questo giornale che si chiama appunto Che dispiacere, che esce solo ed esclusivamente il giorno dopo che la Juventus ha subito una sconfitta. Lui ha anche un dolore nella sua vita, perché sua moglie Francesca, che lui soprattutto soprannominava Togliatti, è morta investita da un'automobile. Lui a volte ha dei ricordi naturalmente su Togliatti, sembra quasi dialogare con lei. Ecco, che personaggio è Bernardo Barigazzi? È uno che scrive dei libri, è uno che ha una 48 anni, se non ricordo male, che sono 20 anni circa che scrive dei libri, ed è un po', come dire, affaticato, ha questa vocazione, insomma, gli piace molto il suo mestiere, ma ormai è un po' stanco e trova quasi per caso il modo di reinventarsi giornalista sportivo, perché si trova una volta al Salone del Libro di Torino, l'ultimo giorno, la domenica, si trova con una ragazza che lavora da una quindicina d'anni in un ufficio stampa della grande casa editrice torinese, e anche lei non ne può quasi più, ecco, di questo lavoro che, visto da fuori, è così affascinante, no? L'editoria, però delle volte da dentro è un po' faticoso, appunto, e sono lì che insomma si raccontano quello che hanno fatto nel Salone del Libro, e lei gli chiede: ma tu cosa devi fare, ancora qualcosa? E lui le dice: sì, guarda, oggi pomeriggio devo presentare un libro e purtroppo è proprio nell'ora in cui gioca il Bologna, non posso vedere la partita del Bologna. E lei gli chiede: ma tu tieni per il Bologna? E lui le risponde: no, io tengo per il Parma, ma sono quasi più contento quando perde il Bologna che quando vince il Torino. Lei gli dice: ma sai che io tengo per il Torino, però anche per me è così, cioè io sono quasi più contento quando perde la Juve, e quando perde la Juve a me, disse questa ragazza, i giornali sportivi non bastano, ne vorrei leggere di più. Allora a questi due viene in mente questa idea di pubblicare, di organizzare un quotidiano sportivo che esca solo il giorno dopo le rare sconfitte della Juventus. E Barigazzi un po', e lo fa, vive in un certo senso una doppia vita, no? La vita normale da scrittore, va in giro a presentare i suoi libri, così poi ha una relazione molto importante naturalmente con sua figlia, che è una ragazza. Ah beh, la figlia, scusa, mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, perché la figlia si chiama, lui la soprannomina, Da Guntai. Io pensavo fosse un nome cinese, ho capito invece solo alla fine nella postfazione che è un'espressione tipica dialettale. È un'espressione parmigiana che significa dacci un taglio, e lui, quando questa bambina era piccola che piangeva così, che si lamentava, lui le diceva Da Guntai, no? Ma anche quando ancora non parlava, e Da Guntai è stata una delle prime parole che ha detto questa ragazza, questa bambina, una delle prime, insieme a babbo e mamma, ecco, ha detto Da Guntai, e quindi è un po' il soprannome affettivo. E da qui si capisce anche un po' l'ironia che tu usi appunto in questo romanzo, perché insomma abbiamo detto il protagonista è Bernardo Barigazzi, ma lui si trova suo malgrado coinvolto in un caso di omicidio, lo diciamo perché il morto c'è alla prima pagina, perché lui viene appunto sospettato di questo omicidio. Però tutta la storia, poi si racconta le vicende dei vari personaggi, lui sembra accettare quasi con filosofia il fatto di essere finito in questo caso. Insomma, lui sembra non scomporsi mai, anche di fronte alle indagini, agli interrogatori degli investigatori. Sì, lui è uno che ha uno strano punto di vista, cioè lo si dice anche in quarto di copertina, lui è uno che quando le cose gli vanno male gli sembra che sia normale, ecco. Lui si preoccupa quando le cose gli vanno bene, quando tutto va a gonfie vele comincia a preoccuparsi, mentre nelle difficoltà gli sembra che tutto torni, ecco, che si debba far fatica. Ecco, fra gli altri personaggi c'è per esempio la barista Marzia, con la quale Bernardo Barigazzi cerca di avere, c'è un timido accenno di una relazione, ma sembra insomma che una serie di coincidenze li spingano sempre poi a non incontrarsi, poi vedremo come andrà a finire. Ecco, Marzia invece è giovane, più giovane di lui, ha la passione per la corsa, qualsiasi cosa le accada nella sua vita, lei corre. Ecco, che ragazza è Marzia? Marzia è una che ha studiato filosofia e che ha nascosto questa sua laurea in filosofia quando ha presentato il curriculum per farsi assumere come barista. Fa un mestiere che non le piace tanto, lavora vicino allo stadio a Bologna ed è una che sta cercando anche lei di capire che vita deve fare. Mi viene da dire che c'è un passo dove si cita un autore russo che si chiama Shklovsky, no? A Marzia succede che è a casa di un suo fidanzato precedente, no? E aspetta questo fidanzato che non arriva, e apre un libro nella libreria, e in questo libro c'è scritto che i primi crociati quando hanno fatto appunto la prima crociata, tutte le città che incontravano le scambiavano per Gerusalemme. Poi quando si accorgevano che in realtà non era Gerusalemme, facevano un pogrom e poi se ne andavano. E finisce Sklovsky dicendo comunque Gerusalemme esiste. Ecco, Marzia è convinta che Gerusalemme esiste, però non l'ha ancora trovata. È una che cerca Gerusalemme e quando le succede qualcosa che non va tanto bene, va a correre, appunto, e corre tutti i giorni. E da qui si capisce, insomma, che non sempre le cose le vanno benissimo nella vita. E poi, vabbè, c'è Enrico Mancino, che insomma è quasi l'alter ego, diciamo, di Barigazzi, nel senso che l'antagonista, forse, perché questo Enrico Mancino fa il giornalista, ma lui aspira a diventare scrittore, insomma, adora Barigazzi come scrittore, ma forse ne adora soprattutto il suo successo, lo invidia. Sì, un po' lo invidia, ma Enrico Mancino è più giovane, ha una decina d'anni in meno di Barigazzi ed è ancora un po' agli inizi, ed è proprio il contrario di Barigazzi. Mentre Barigazzi fa lo scrittore, cioè da scrittore sta diventando giornalista, Mancino è un giornalista che vorrebbe, aspira a farlo scrittore, in realtà aspira a diventare famoso. È appena pubblicato un romanzo che si intitola Sono contento di morire ma mi dispiace, che in un certo senso romanzo, e anche lui è un personaggio che ha dei tratti simpatici. A me piace molto il momento in cui entra in una libreria, perché non ha niente da fare, in realtà perché si vuole nascondere da una ragazza, e si mette a guardare i quaderni, i Moleskine, no? E si accorge che il costo medio dei Moleskine è 19 euro. E pensa al fatto che il suo libro, che ha una lunghezza più o meno 200 pagine, tutte scritte, mentre quei Moleskine sono tutti bianchi, ne costa 16. E pensa, ecco, ho abbassato il prezzo della carta. Scrivendo un libro, scrivendo qualcosa sulle pagine bianche, insomma. Ecco, Paolo Nori, si capisce che in questo romanzo, abbiamo detto, c'è molta ironia e secondo me hai messo qui e lì anche dei riferimenti al mondo, dicevamo prima, editoriale, letterario, insomma, un mondo che tu conosci molto bene, ti sei anche un po' voluto divertire in questo senso. Sì, io mi sono divertito molto, ecco. Spero che il lettore si diverta almeno una parte di come mi sono divertito io, perché sono stato molto contento appunto perché la sfida di passare alla terza persona era per me era una cosa grossa, non sapevo se sarei riuscito oppure no. Nei miei romanzi precedenti io scrivo dei romanzi pseudo-autobiografici, no? Dove chi non mi conosce può confondere facilmente quello che personaggio è, certo, è autore. Che sono io. Invece in questo libro qua io ho fatto un po'... Io mi ricordo una volta Dino Risi aveva visto un film di Nanni Moretti, alla fine aveva detto, rivolto a Moretti, Nanni scansati che voglio vedere il film, cioè togliti di mezzo. Io qua ho provato un po' a togliermi di mezzo e devo dire mi è piaciuta l'esperienza di scrivere un libro senza essere tanto in mezzo ai piedi. Senti, ma quanto conta il calcio nella tua vita? Sai che il calcio sta, con la vecchiaia appunto, sta riprendendo un ruolo importante. Io l'anno scorso ho pubblicato un romanzo, un libro, insomma, che si chiama I russi sono matti, nel quale mi chiedevo come mai la letteratura russa è così, mi piace così tanto, ecco. E mi sono risposto che è quella che mi fa più male, no? Io mi ricordo appunto la prima volta che ho letto Delitto e Castigo, e mi ricordo quella domanda che Raskolnikov si fa, cioè ma io sono come un insetto o sono come Napoleone? A me quella domanda lì, a me 14enne, quella domanda lì mi ha aperto una ferita dentro di me, che è una ferita che sanguina ancora oggi, che di anni ne ho 57. Ecco, il calcio, per quanto possa sembrare assurdo a chi non è... Io quando vado a vedere il Parma, perché io sono come Barigazzi un tifoso del Parma, io sto male, non è che io proprio mi agito, no? mi commuovo addirittura, e non so perché, è una cosa che mi sembra cioè, razionalmente inspiegabile e per questo forse ancora più affascinante. Grazie a Paolo Nori, ora in libreria con Che dispiacere, un'indagine su Bernardo Barigazzi. L'abbiamo detto, è un giallo ironico, è un giallo molto sui generis, pubblicato da Salani. Grazie Paolo. Grazie a te, Alessandro. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. Ma è possibile che c'è? Le piroette della politica, le notizie che arrivano da ogni parte del mondo, la cronaca nera, la cronaca bianca, lo sport, gli spettacoli, io non ci capisco più niente. Ma come si fa a seguire tutto? Scusa, ma tu ascolti Effetto Notte? No, Ah, ecco, si capisce. Effetto notte di Roberta Giordano. Dal lunedì al venerdì alle 21 su Radio 24. In modo che un giorno non potrete dire: io questa mica la sapevo. Il cacciatore di libri. Titola Le isole di Norman, scritto da Veronica Galletta e pubblicato dalla Italo Svevo. Questo è il romanzo che ha vinto il Campiello Opera Prima 2020. La protagonista è Elena, una ragazza che sta per iscriversi a geologia all'università, così la vediamo all'inizio del romanzo. È una ragazza che non ama particolarmente i cambiamenti. Lei dice che i cambiamenti le provocano quasi un senso di vertigine. E ci sono due traumi che pesano nella sua vita. Uno che è avvenuto quando lei era molto piccola, aveva 4 anni, le è caduta addosso una pentola di acqua bollente che le ha lasciato naturalmente delle ustioni, delle cicatrici, che però con le quali però lei convive quasi in modo naturale. Lei le chiama fin da bambina queste cicatrici Lilliput e Laputa, oppure Momprachen. E poi c'è un altro grande trauma, il fatto cioè che la madre abbia abbandonato la figlia e il marito, insomma è andata via di casa. Allora Veronica, partiamo proprio dal personaggio di Elena. Che ragazza è Elena? Elena è una ragazza che credo tu abbia descritto nella tua introduzione perfettamente, e sicuramente una delle sue caratteristiche è il fatto che i cambiamenti la spaventano, la terrorizzano, e questo, come dire, probabilmente è una caratteristica che riguarda tutti, una caratteristica comune, che però in lei è veramente esasperata. È una ragazza molto sola, che passa molto tempo da sola e cerca di resistere al cambiamento, o anche di interpretare i segni del cambiamento attraverso una serie di costruzioni tutte sue, ecco, che è quello che fa poi con le mappe durante lo svolgimento del romanzo, ma è una caratteristica che ha in generale. Lei dice: venerdì è un ottimo giorno per fare le mappe, e noi non lo sapremo mai perché dice una cosa del genere, no? È proprio un suo modo. Oppure scopre che le mappe sono 103 a un certo punto sempre del romanzo, e per lei va a cercare di si studia il significato del numero 103. Ecco, spieghiamo un po' che cosa sono le mappe, perché sono centrali nella vita di Elena. Sono anche un modo per mantenere un po' un legame con la madre, appunto, che l'ha abbandonata, perché lei entra nella stanza da letto della madre, vede la posizione in cui la madre aveva lasciato delle pile, delle cataste di libri, e poi, diciamo, virtualmente sovrappone questa mappa della stanza della madre con la mappa di Ortigia, ossia il centro storico di Siracusa dove loro vivono, e va al mattino presto, alla sera, in giro per Ortigia a depositare a sua volta dei libri. Ecco, che rapporto lei ha con queste mappe? È un rapporto di interpretazione, è un suo desiderio di cercare di interpretare la realtà, ma ancora di più in qualche modo di semplificarla, di toglierle quello che nell'ingegneria delle strutture si chiamano gradi di libertà. Toglie un grado di libertà alla realtà, cerca di ridurla da una realtà tridimensionale nello spazio, no? E poi, insomma, nella vita ancora più complessa, a una realtà bidimensionale, quindi appunto attraverso queste mappe, che sono in qualche modo anche un suo richiamo al suo essere bambina, perché questo incidente che le è successo quando lei era così piccola, del quale tu dicevi giustamente porta le tracce, che però lei ha trasformato anche in quel caso in una sorta di gioco, le chiama le mie isole, gli dà i nomi dei libri d'avventura che leggeva da bambina e che ancora le piacciono, l'isola del tesoro sopra tutti gli altri. Però ecco, mantiene quel tipo di rapporto probabilmente per questo incidente che ha avuto, che in qualche maniera le ha cristallizzato una parte della vita, mantiene questo tipo di rapporto poi anche con il mondo, e quindi vede il pavimento della stanza della madre e ne vede una battaglia navale, e nelle pile dei libri pensa che siano dei sommergibili, degli incrociatori, cioè ha questo processo di trasformazione della realtà. Ecco, naturalmente l'abbandono da parte della madre è qualcosa che pesa profondamente sulla vita sia di Elena ma anche del padre di Elena. A un certo punto tu scrivi, questo è il pensiero di Elena, perché io lo so che non tornerai, perché è brutto da dire, ma mi sento meglio, perché non sopportavo di vederti chiusa là dentro, mentre io fuori pensavo a come fare per capirti. Insomma, la madre aveva dato dei segni di disagio prima di scomparire. In qualche modo Elena aveva fatto di tutto per cercare di interpretare questi segni, non c'era riuscita, e un po' forse si sente anche in colpa per essere stata abbandonata dalla madre. Si sente in colpa forse per non essere riuscita comunque ad aiutarla. Lei ha messo in piedi tutta questa costruzione di interpretazione della realtà, e poi sempre secondo i suoi canoni e secondo la sua maniera di vedere la realtà, quando va a guardare per esempio le ultime tre mappe che è riuscita a fare prima che la madre vada via, sono tre mappe perfettamente uguali, cioè sono tre mappe, quindi i libri non si erano mossi negli ultimi tre mesi, lei dice, solo uno al mese sono riuscita a farne. Quindi la madre, ma come tutti noi, no? La madre aveva dato dei segnali che qualcosa sarebbe cambiato, lei è dispiaciuta e in qualche modo per non essere riuscita a capirlo, perché questa interpretazione della realtà, un certo questo modo, è proprio una sua maniera di essere, quindi si sente proprio ferita, come un comandante che ha sbagliato la sua strategia militare nella battaglia. Poi c'è un altro aspetto, l'aspetto emotivo che tu dicevi giustamente, che è un aspetto molto forte. Lei ha fatto di tutto, lei decide di non andare a vivere nella città a Catania in cui c'è l'università per cercare di stare comunque intorno alla madre. Questa donna va via, il cambiamento c'è, e per lei alla fine non è un cambiamento da un punto di vista emotivo come se lo sarebbe immaginato. In realtà si sente sollevata comunque. Infatti lei alla fine si sente appunto sollevata, perché la situazione era complessa, delicata, anche pesante, forse anche da sopportare per una ragazza. Poi la madre, quando va via portandosi una pianta di basilico, lei dice, un gilet e un libro. Quindi inevitabilmente questo abbandono così provoca del dolore, ma nello stesso tempo forse anche del sollievo. Ecco, non abbiamo ancora parlato della figura del padre di Michele, che è questo docente di matematica, professore di matematica. Lui è iscritto al Partito Comunista dell'epoca, è un militante, riesce poco a comprendere i cambiamenti che sta subendo il Partito Comunista. Che tipo di rapporto ha con Elena? Sì, noi incontriamo anche Michele in un momento molto particolare della sua vita, perché il romanzo è ambientato fra l'ottobre del 91 e il maggio del 92, e diciamo la parte nel presente, poi ci sono tutti i recuperi dei flashback nel passato dell'incidente della bambina. Ed è un momento anche per lui di forte immobilismo, perché c'è appena stata la svolta della Bolognina nel gennaio di quell'anno, e quindi anche la fine del Partito Comunista com'era. Il rapporto che ha con Elena è anche il suo è un rapporto contemplativo, mi viene da dire, un rapporto anche quello fra loro due, sicuramente un rapporto di affetto forte, ma nel quale non ci si riesce a dire le cose, e quindi... Ci sono molti silenzi in questo libro, molti silenzi proprio emotivi. Sì, ci sono molti silenzi emotivi, ci sono molti non detti, c'è molto il parlarsi per rimandi, ci sono due forse grandi ragioni per una cosa del genere. La prima è che da un punto di vista letterario, no, se uno se uno scrive quello che vorrebbe leggere, no? In qualche modo i dialoghi del non detto sono quelli che mi interessano di più. E poi, visto che siamo noi che scriviamo i nostri libri, quindi sono io che l'ho scritta, sicuramente c'è dentro una mia difficoltà sull'uso della parola o del dialogo, ecco. Ecco, si capisce che Ortigia, appunto il centro storico di Siracusa, che lo ricordiamo è un'isola, perché è collegata poi con due ponti alla terraferma, è un po' anche l'altro protagonista di questo romanzo. Non è l'Ortigia turistica, quella che siamo abituati a conoscere negli ultimi anni, negli ultimi tempi, anche perché è un'Ortigia che vediamo attraverso gli occhi di Elena, che percorre queste strade, appunto abbiamo detto, al mattino presto, la sera tardi, comunque si vedono scene di vita quotidiana. È un'Ortigia, per esempio, sferzata da questo vento incessante. A un certo punto tu scrivi che Ortigia si sceglie. In che senso? Ortigia si sceglie perché Ortigia, appunto il centro storico di Siracusa, siamo in Sicilia, no? Ed è un posto, io credo, la Sicilia, ed è una riflessione che faccio prima di tutto poi per me stessa, che comunque vivo da altre parti, vivo fuori dalla Sicilia dal 96, quindi un tempo lunghissimo. E si sceglie nel senso che bisogna accettarne le contraddizioni. Io vedo spesso nei confronti della Sicilia, da parte di persone che mi è capitato di vedere, che ci sono per esempio andate a vivere nel tempo, no? E questo innamoramento feroce iniziale, ma è come se fosse un innamoramento selettivo, come forse sono tutti gli innamoramenti, no? E uno dice sempre, nella prima settimana, se tu lo analizzi bene, c'è tutto quello che ti dà, no? La persona che conosci, poi dopo 10 anni dici ma non era così. In realtà, ecco, Ortigia è tutto insieme, e bisogna guardarlo tutto insieme fin dall'inizio, e quindi con tutte le sue contraddizioni, con tutte le cose che magari non funzionano, la spazzatura. Mi hanno detto, hai scritto un romanzo pieno di spazzatura, ma la spazzatura esiste, e non toglie niente, semplicemente è una componente di un luogo, e quindi bisogna sceglierla con tanta pazienza, quella stessa con cui forse scegli la persona con cui stare tutta la vita, non so, forse in quella maniera. Grazie a Veronica Galletta, ora in libreria con Le Isole di Norman, pubblicato da Italo Svevo Editore. Questo, lo dicevamo, è il libro che ha vinto il premio Campiello Opera Prima. Stasera invece verrà assegnato il premio Campiello. Vi ricordo quali sono i finalisti. Patrizia Cavalli con il libro Compassi giapponesi, pubblicato da Einaudi. Sandro Frizziero con Sommersione, pubblicato da Fazzi. Francesco Guccini con Tra lume scuro, ballata per un paese al tramonto, pubblicato da Giunti. Remo Rapino con Vita, morte, miracoli di Bonfiglio Liborio, pubblicato da Minimum Fax. E Ade Zeno con L'incanto del pesce luna, Bollati Boringhieri. E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast, naturalmente, su radio24.it. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook con la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24, ma anche su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.